Salva Danaio di Deborah Rosciani. Adesso mi sente? Eccoci qua. Buongiorno a tutti da Deborah Rosciani, ben trovati ad un nuovo appuntamento con Salva Danaio. Mi stavo rivolgendo ad uno degli ospiti di questa mattina che ci accompagneranno, uno dei due ospiti che stamattina ci accompagneranno a Salva Danaio per fare un po' il punto sull'andamento dei mercati finanziari. Appuntamento del venerdì che abbastanza costantemente dedichiamo a questo argomento e questa insomma è una settimana, quella che stiamo chiudendo oggi, che è stata, definiamola un po' così, interessante. Stiamo rivedendo una certa tensione sui mercati. L'epicentro è la questione irlandese, almeno nelle ultime due settimane è stato questo l'epicentro della così tensione che è ritornata sui mercati finanziari, la crisi del debito sovrano e il rischio di contagio, situazione che ha riportato appunto un clima piuttosto all'insegna della fibrillazione, della nervosismo fra gli investitori. Da oggi tra l'altro si è aggiunto, anche se non molto inatteso, un altro tassello. Perché? Perché la maggioranza dei paesi dell'Unione Europea e la Banca Centrale Europea sarebbero in pressing sul governo portoghese affinché chieda un piano di aiuti. Questa notizia è stata divulgata stamattina dall'edizione tedesca del Financial Times. Adesso vedo sulle agenzie una raffica di smentite, sia da parte per esempio del portavoce tedesco, sia da parte della stessa Banca Centrale Europea. Lo stesso Portogallo ha detto di non aver ricevuto nessun tipo di pressione di questo tipo. Barroso, e quindi dall'Unione Europea, il Presidente della Commissione Europea, ha detto che l'Unione Europea non ha suggerito al Portogallo alcunché. Saranno state poi smentite queste notizie per l'appunto, sarà che non è successo niente. Di fatto stamattina le borse stanno scendendo di nuovo in maniera piuttosto forte. Vedo che tra l'altro le vendite si stanno intensificando. Parigi perde l'1,78%, Francoforte l'1,38%, Londra l'1,51%, Milano meno 1,68%. Le vendite si sono scatenate di nuovo sui titoli del settore bancario. E questo è il motivo per cui per esempio Milano è uno dei listini che perde di più, anche se però per la verità le vendite più forti sono sulle banche spagnole stamattina. Perché? Perché naturalmente il problema è che la Spagna ha una fortissima esposizione sul Portogallo e qualcuno già stamattina ha detto meglio il Portogallo che chieda il piano di aiuti piuttosto che lo faccia la Spagna, e quindi sarebbe più facile gestire insomma un eventuale secondo problema europeo, come anzi terzo dopo la Grecia, come quello portoghese, piuttosto che tutta questa situazione coinvolga direttamente la Spagna. E insomma chissà se succederà nei prossimi giorni. Di fatto oggi commentiamo proprio tutta questa situazione. Peraltro nel fine settimana si dovrebbero definire anche proprio le technicality dell'intervento irlandese. Vedremo se usciranno dei dettagli maggiori nei prossimi giorni su questo. Vedo anche che l'euro continua a scendere sul dollaro, adesso è a 1,32,06. 800 24 0024, il numero verde per le vostre domande, le vostre considerazioni su ciò che si sta vedendo sui mercati finanziari in questi giorni. Noi gireremo le vostre riflessioni ad Emilio Franco, responsabile investimenti di per America, bentornato. Grazie, buongiorno. Bentornato anche a Giorgio Giovannini, country manager per l'Italia di Anderson Global Investors. Buongiorno. Grazie, buona giornata. Allora, anche il numero verde ve l'ho dato, vi posso dare anche di nuovo il numero per inviarci i vostri sms, che è il 349-238-6666. E quindi insomma non vi do la giornata di borsa perché ve l'ho appena data. Di fatto questa settimana abbiamo avuto, oltre che il calo su tutti gli indici, che poi alla fine della fiera, poi ho un bilancio e ve lo racconterò anche, non è che sia particolarmente negativo. La tensione forte è andata sul mercato valutario, come abbiamo già visto, perché l'euro è sceso molto sul dollaro, ma la pressione forte è stata anche sui titoli di Stato, situazione che per fortuna, almeno nelle aste di ieri, non ha coinvolto l'Italia, anche se ieri c'è stato un altro giallo che ha coinvolto il mercato obbligazionario con riferimento al nostro paese. Tra i trader è cominciata a circolare la notizia che Moody's fosse pronto ad abbassare il nostro rating, oltre a farlo su quello del debito sovrano di Spagna e Portogallo. Anche l'Italia sembrava coinvolta appunto in una possibile riduzione di giudizio sul debito da parte di questa agenzia di rating. Moody's ha smentito seccamente che fosse pronta a questo, di fatto però già questo aveva creato di nuovo nervosismo. Insomma, quello di cui parliamo è solo nervosismo a quanto pare, grande speculazione che in ogni caso crea questa incertezza che poi coinvolge anche i piccoli risparmiatori, naturalmente, che stanno adesso alla finestra e non sanno bene che tipo di posizioni prendere. La nostra scheda, vi riepiloghiamo un po' quello che è successo questa settimana, poi cominciamo la nostra chiacchierata. Va a chiudersi una settimana di incertezze e nervosismi sui mercati europei. Riflettori tutti puntati sull'Irlanda e sulla manovra Lacrime e Sangue, proposta mercoledì dal governo del premier Brian Cowen. Una ricetta dal gusto senz'altro amaro per il paese, che dovrebbe però permettere all'ex tigre celtica di salvarsi dal tracollo, ricevendo gli aiuti di Unione Europea e Fondo Monetario Internazionale, stimati intorno agli 85 miliardi di euro. Per avere la certezza dell'approvazione del testo in Parlamento, bisognerà aspettare il 7 dicembre. E se gli irlandesi si preparano a tagli di posti di lavoro nel pubblico impiego, riduzione del salario minimo, aumento dell'IVA e delle tasse universitarie, nel resto del continente non mancano certo le preoccupazioni. In primis, quelle con cui gli investitori guardano alla volatilità dell'euro, che martedì ha toccato i minimi da oltre due mesi a quota 1,32 dollari, incertezza del cambio su cui pesano senz'altro le molte incognite legate alle crisi debitorie di alcuni paesi. Un'epidemia che minaccia di allargarsi andando a contagiare per primi il Portogallo e la Spagna. Quest'ultima reduce da un'asta semestrale che ha visto schizzare verso l'alto il rendimento del bond a sei mesi, senza che venisse collocata neanche la quota minima dell'importo annunciato. Tengono invece i titoli di Stato italiani, che sebbene abbiano visto aumentare gli interessi, hanno mantenuto un buon rapporto domanda-offerta in linea con le ultime aste. In borsa, nel mirino degli investitori restano soprattutto le banche, le cui perdite sono alla base della crisi irlandese e hanno trascinato al ribasso i listini. Situazione che non ha mancato di farsi sentire a Milano, dove pesano in modo particolare i titoli degli istituti di credito. E infatti, a ieri, da lunedì scorso, per esempio, Milano aveva perso il 4%, a cui si aggiunge la performance di oggi, vedremo quale sarà però alla chiusura. La Francia ha perso 2,5 punti, la Spagna ha perso oltre il 5%, poi vabbè, la Grecia meno 3,5 punti, il Portogallo meno 3,38, la Germania ha fatto più 0,53 e insomma loro sono sempre più tranquilli. La Merkel detta legge, una mattina si alza e qualunque dichiarazione faccia ha sempre un certo effetto sul mercato. Stamattina ha voluto un po' rassicurare, dicendo di non essere forse più di quella stessa opinione che aveva espresso ad inizio settimana, quando diceva insomma la situazione della zona euro è all'insegna della grave emergenza. Oggi ha corretto un po' il tiro sull'euro, non abbiamo visto nessun effetto perché siamo ancora 1,32. E allora, Emilio Franco, comincio con lei. Tutto quello che vediamo in questi giorni rispecchia effettivamente i fondamentali dell'economia dell'eurozona, e quanta speculazione fa parte insomma del mercato in questa fase? Ma secondo me è troppo semplicistico ricondurre le vicende che stiamo vivendo alla speculazione. Diciamo, fa comodo alla politica, però non è un riflesso della realtà che viviamo. Diciamo, c'è un problema strutturalissimo che riguarda l'unione monetaria, e qui chi studia e ha studiato di economia e si è occupato di moneta unica da un po' di anni sa che c'è un'amplissima letteratura sul fatto che per le differenze che ci sono strutturali nei paesi dell'area euro che hanno aderito alla moneta unica, la nostra area non sia quella che in teoria dovrebbe essere un'area monetaria ottimale. Ci sono delle rigidità e delle differenze nel flusso dei capitali, non più, ma almeno nel, per esempio, mobilità del lavoro, negli assetti istituzionali, che fanno sì che shock idiosincratici non si possano accomodare senza avere lo strumento del cambio, ad esempio, come strumento di svalutazione competitiva. E questo è sullo sfondo il tema che si cercherà di affrontare nel lungo termine, studiando ad esempio dei meccanismi più federalisti di redistribuzione del reddito, ma questo è un tema di lunghissimo termine. Nell'immediato invece, esatto, quello che abbiamo è un problema piuttosto semplice, purtroppo, che è alla radice della crisi che abbiamo vissuto e che stiamo vivendo, ed è nel settore bancario, perché la crisi dell'Irlanda, la recentissima, quella del peggioramento attuale, non dipende dall'insostenibilità di un debito pubblico perché gli irlandesi sono stati troppo generosi e hanno fatto esplodere il loro debito tagliando le tasse o aumentando troppo la spesa pubblica. Il problema dell'Irlanda, il debito sovrano dell'Irlanda, dipende dalla situazione di instabilità delle banche. Ci hanno raccontato soltanto pochi mesi fa i policy maker europei, con lo stress test delle banche europee, che le banche europee erano a posto, che in Irlanda le banche non avevano bisogno di capitale. e che tutto il sistema bancario dell'area euro aveva bisogno soltanto di 3 miliardi e mezzo di euro per essere ricapitalizzato, sappiamo che l'escalation in Irlanda è arrivata dalla presa d'atto del fatto che in Irlanda ci vogliono almeno 40-50 miliardi nuovi di capitale nelle banche per evitare il collasso del sistema bancario. Questo perché il mercato immobiliare, esatto, sta continuando a peggiorare. E questo è un grandissimo tema ed è il vero anello di congiunzione, se mi permette, non tanto solamente il Portogallo come elemento che conduce alla Spagna, ma la Spagna ha una bolla immobiliare, ha vissuto una bolla immobiliare che assomiglia molto più a quella irlandese che a quella statunitense, però casualmente dal picco delle quotazioni delle case, le case in Spagna sono scese soltanto del 12%, mentre a Dublino il 60% è crollato il mercato immobiliare o qualcosa del certamente genere. Questo ovviamente trascina le banche, perché intanto in Irlanda abbiamo un sistema bancario enorme, cioè il totale degli attivi delle banche irlandesi è 10 volte il PIL dell'Irlanda. Questi sono i numeri dell'Islanda. In Spagna sono un po' più piccoli, ma i mutui in Spagna sono 1 trilione di euro, sono il 100% del PIL, e sappiamo che sono sui balance sheet, sugli stati patrimoniali delle banche, a valori sopravvalutati. Lì ci vuole una ricapitalizzazione del sistema bancario. La ristrutturazione in Spagna del sistema bancario sta andando avanti troppo lentamente. Quindi insomma il capitolo spagnolo non si sa bene in che termini, ma probabilmente nei prossimi mesi si aprirà. Lascio con questa domanda, non vi faccio rispondere, devo già andare in pausa Giovannini, quindi poi la faccio intervenire nella seconda parte della trasmissione. 800 24 00 24, numero verde per i vostri interventi. Vedo già diversi ascoltatori pronti a dirci la loro opinione tra pochissimo. Eccoci ritrovati in diretta, come se non si fosse già scritto e detto abbastanza, anche noi oggi ritorniamo sulla crisi irlandese, gli effetti che potrebbe determinare, li stiamo già vedendo in borsa, oggi è giornata piuttosto negativa di nuovo, peraltro siamo curiosi anche di vedere oggi come apriranno le contrattazioni a Wall Street, ieri mercato americano chiuso per il Thanksgiving Day, oggi si riapre, però la giornata sarà a metà e comunque la crisi, il focolaio è europeo, e prima stavamo facendo alcuni ragionamenti sulla possibilità che dopo l'Irlanda si dovranno aprire i cordoni della borsa per il Portogallo e a cascata chissà anche sulla Spagna. Allora, prima di sentire, ho già sentito Emilio Franco, responsabile investimenti di UBI per America, prima di sentire Giorgio Giovannini, country manager per l'Italia di Anderson Global Investors, la domanda di Francesco da Udine che mi sembra pertinente rispetto al ragionamento fatto fino a questo momento. Francesco, buongiorno. Buongiorno. Ci dica. Stavo chiedendo, allora ho letto un articolo sul Sole di ieri dove diceva appunto che gli stati italiani sono vittima come delle carogne di attacchi da parte di queste iene che sono identificate negli speculatori che stanno nei grossi palazzoni di Manhattan e che quindi si avventano tutti assieme verso la preda più debole, in questo caso Irlanda, la prossima Portogallo e la prossima sarà la Spagna. Quindi di fondo, di sostanza, c'è solamente una speculazione a ribasso da quello che io posso aver capito. La prima domanda è: fino a dove potrà spingersi questa speculazione a ribasso per chi oggi sta investendo in borsa, sia verso chi è short, quindi fin dove si può arrivare, cioè 16,5 potrebbe essere un punto d'arrivo, punto di domanda. La seconda domanda è: le banche italiane che stanno performando così male in Europa rispetto alla media europea, escluso le banche chiaramente che sono sotto l'osservazione degli speculatori, Irlanda e Spagna, sì. Dico perché stanno performando così male nonostante l'Italia abbia un debito che è stato dichiarato buono, Moody's ha detto che non c'è problema per l'Italia. Va bene, Francesco, la ringrazio, abbiamo capito la sostanza della sua domanda e cominciamo con Giorgio Giovannini. Il primo tema affrontato da Francesco da Udine è dove potrà spingersi tutto questo. Qualche suo collega qualche giorno fa mi diceva stiamo camminando su un terreno assolutamente ignoto, quindi mi chiedo anche quanto possa essere facile rispondere ad una domanda di questo tipo in una crisi che negli ultimi 3 anni ci ha fatto conoscere mese dopo mese e capitoli nuovi, territori completamente inesplorati in passato, per cui non so quanto possa essere facile individuare la prossima frontiera della crisi. Allora, io risponderei a diversi livelli. Primo livello, secondo me, e mi riallaccio a quanto detto dal mio collega, non ha senso puntare il dito sulla speculazione. Non è la speculazione il problema. La speculazione è la conseguenza di problemi strutturali che ci sono sia a livello europeo che anche a livello mondiale. Vorrei ricordare che anche questo adesso parlare di al ribasso, a livello generale, a livello mondiale, questo è stato un buon anno per l'azionario. È chiaro che ci sono differenze rispetto a un'area, rispetto a un'altra. Infatti, Milano non ha vissuto un buon anno, ma Milano a livello sia europeo che a livello internazionale pesa estremamente poco, quindi ci può essere un problema locale che nel caso specifico è determinato dall'estrema percentuale di titoli finanziari nel listino milanese rispetto invece a un problema generale. Per fare un passo indietro, secondo me non si tratta quindi di parlare di speculazione, ma si tratta di porre una certa regolamentazione all'interno dei mercati finanziari. È 3 anni che discutiamo di nuove regole, di nuove regolamentazioni, di nuovi controlli, è stato fatto troppo poco. Questa è una crisi finanziaria, nel senso che si è lasciato troppo spazio alla finanza all'interno dell'economia, che è stata a sua volta esasperata da una crisi determinata dall'immobiliare. Si è cartolarizzato, si è finanziarizzato troppo il settore immobiliare. Chiaramente i primi attori che sono stati colpiti sono quelli bancari. Ora si tratta di cercare di evitare in futuro certi comportamenti che si sono rivelati poi assolutamente errati e malsani, all'interno dei quali, ma lo butto lì solo come esempio, si tratta a un certo punto di dover porre mano a una regolamentazione dell'attività dei derivati. La domanda che ci poniamo sempre: se si specula contro un paese vendendo i certificati di deposito, i famosi CDS di questo paese, perché un ente che non ha obbligazioni del paese può andare short su questo paese stesso? Cercando di semplificare, perché posso vendere allo scoperto ciò che non ho? Molto spesso quando andiamo ad analizzare ex post chi ha venduto, chi è andato, come diceva questo ascoltatore short, si tratta di operatori che non avevano assolutamente titoli di debito di quel paese, semplicemente andavano scoperti, andavano corti utilizzando uno strumento nato per coprire il rischio a proprio vantaggio. Quindi mi faccia capire in maniera un po' diversa rispetto a quanto indicava Emilio Franco poco fa, lei comunque attribuisce alla crisi, almeno nelle modalità in cui si sta propagando in questo momento, una forte caratterizzazione speculativa? No, allora io dico che la speculazione si insinua dove non ci sono a livello politico ed economico delle regole ben precise e dove gli operatori finanziari sono autorizzati e da loro è permesso fare tutto quello che vogliono. Allora, ci sono degli strumenti come i derivati che nascono con una logica giusta, corretta, di limitare e proteggere un operatore dal rischio, che sia esso rischio società, rischio paese, rischio mercato, e che poi vengono utilizzati unicamente come speculazione. Se si permette questo, non bisogna dare la colpa a chi lo fa. È permesso, è qualcosa di lecito. Bisogna regolamentare queste situazione. Per tornare alla domanda però che ci ha fatto l'ascoltatore, tutto questo secondo lei significa che se l'ascoltatore ci chiede fino a che punto potrà spingersi ancora questa crisi, un punto che ancora è impossibile da definire? Ma non si può definire, questa crisi è in essere da 3 anni e abbiamo già sentito troppe volte dire il peggio è alle spalle. Il peggio non sarà mai alle spalle fino a quando non si prenderà coscienza che questa crisi ci impone una diversa struttura dei mercati finanziari, ci impone di ritornare a un'economia più reale, più industriale, vedi la Germania che quindi ne sta beneficiando, ci impone quindi dei comportamenti che devono essere differenti. Il problema è che per farla tornare sul sentiero la crescita della manifattura, mettiamola così, ci vuole anche il sostegno bancario che in questo momento ancora non è in grado di darlo. Assolutamente, ma questa è una crisi che durerà ancora molti anni. Senza voler spargere del pessimismo, non si può pensare di aver creato una crisi di queste dimensioni, che personalmente io considero peggiore ancora rispetto a quella del 1929 in 18 mesi, sì, in 24 mesi. Bisogna creare regole, bisogna introdurle, bisogna che tutti ritornino ad avere dei comportamenti virtuosi. Lascio a Franco adesso l'aspetto delle banche. Ubi stamattina perde 2,5 punti, così, ma adesso non è perché la volevo mettere di cattivo umore, ma proprio per far capire appunto quanto effettivamente anche le banche italiane, che hanno un'esposizione molto limitata anche sull'Irlanda rispetto a quanto non abbiano per esempio le banche spagnole o addirittura quelle tedesche, che sono quelle più esposte credo al quadro irlandese, e però insomma pagano le banche italiane sempre in maniera piuttosto forte rispetto alle giornate storte come quella che stiamo vedendo questa mattina. Le metto insieme però anche l'osservazione di Filippo da Verona. Filippo, buongiorno. Sì, buongiorno, grazie intanto. Grazie a lei. Volevo fare una domanda al volo un po' a bruciapelo a lei e ai suoi ospiti, riprendendo un articolo che ho letto recentemente qualche giorno fa dell'ex ministro Savona, non mi ricordo purtroppo la testata online. Ma credo scriva sul Messaggero mediamente, quindi potrebbe essere stata quella. Può essere, che sostanzialmente lui proponeva e riteneva non del tutto impossibile la possibilità che l'Irlanda o questi paesi comunque abbastanza in crisi potessero prendere l'iniziativa e ripudiare il debito sovrano verso l'estero. Cosa ne pensate? Allora, un'idea così, sì, forse così un po' sibilina, paranoica, ma quantomeno si è già verificato nel passato. Un ex ministro, peraltro Savona adesso, se non ricordo male, è presidente del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, che sarebbe quella risorsa a cui bisognerebbe attingere qualora fallisse una banca italiana. No, lo ricordo solamente perché mi incuriosiva che alcuni giornali avessero ricordato questa carica di Savona nei giorni scorsi, non, forse l'ho visto in un programma di un convegno, non mi ricordo, perché nel culmine della crisi del 2008 abbiamo fatto tante quelle trasmissioni sul fondo interbancario come se effettivamente insomma la questione di un fallimento di una banca italiana potesse essere una prospettiva da un giorno ad un altro. Adesso ce ne siamo dimenticati, ma così ho voluto raccontare questo aneddoto che non c'entra niente. Ma allora, ripudiare uno stato sovrano, Franco, che cosa significa? Ma è quello che il debito sovrano, non lo so. No, è fare default in qualche modo il debitore sovrano, e lo può fare perché ha la potestà normalmente, perché lo stato non fallisce, ricordiamolo, ma ristruttura il suo debito, come ha fatto l'Argentina, lo riporta per 50 anni emettendo debito nella sua giurisdizione. Con quel debito può fare quello che vuole. Ovviamente le conseguenze di un default sono molto serie dal punto di vista della capacità, certo, di uno Stato poi di ritornare sul mercato. Esatto, che comunque, l'Argentina l'ha pagato duramente, comunque, poi l'ha fatto per, certo, per altri motivi. Ma, Il professor Savona non è che ha citato un evento paranoico, per dire, come diceva l'ascoltatore, perché in realtà se andiamo a vedere anche prima dell'ultima escalation recentissima della crisi, qual era la probabilità che il mercato stava apprezzando circa un default della Grecia, questa probabilità era superiore al 70%. Quindi di fatto cosa succede? Quando il percorso di debito pubblico è insostenibile, all'inizio, e questa è la strada tedesca per l'aggiustamento, la strada tedesca per l'aggiustamento dice facciamo l'aggiustamento fiscale, andiamo in avanzo primario, scateniamo una deflazione nel paese, no? Però in questo modo speriamo di poter rientrare nell'ordine della finanza pubblica. Questo però purtroppo per un paese indebitato non ottiene i risultati sperati, perché se non c'è crescita nominale è molto difficile, senza strangolare l'economia, invertire la dinamica del rapporto debito-PIL. A un certo punto l'aggiustamento fiscale diventa troppo pesante. Allora ci sono solo due opzioni in teoria che uno Stato può utilizzare per risolvere questo problema: o fare default, cioè dire sentite, il debito che ho alle spalle è troppo, gli interessi che devo pagare mi mangiano tutto il gettito, quindi è interesse mio, interesse del paese a questo punto non fare più aggiustamenti fiscali che strangolano l'economia, ma ristrutturare il debito, tagliarlo, non so, del 30, del 40, del 50% e ripartire da una base più pulita. Oppure, in un paese che ha la banca centrale domestica, monetizzare il debito. Questa è la strada che in Europa nella regola non si può usare, perché la banca centrale è unica ed è la ECB e segue le regole che ci dà la Bundesbank, che sono le regole tedesche, quindi questo non succederà mai. Quindi il mercato in realtà è andato già, per esempio nella Grecia, e lo sta facendo con l'Irlanda, a apprezzare un'elevata probabilità. Sì. Credo addirittura qualche ufficio studi abbia apprezzato un 50% il rischio default irlandese, forse anche più alto. Comunque. Ecco, questo però è uno dei canali di contagio. Perché? Perché nell'area euro, più che mai, il rischio sovrano di credito è intrecciato al rischio delle banche. Le banche, dopo il fallimento di Lehman, sono state salvate dagli stati, come l'Irlanda, che hanno garantito, l'Irlanda ha garantito due volte, tre volte il suo PIL, il debito di tutte le banche irlandesi, no? e a sua volta le banche irlandesi hanno comprato debito sovrano dell'Irlanda, la stessa cosa ha fatto la Spagna. Quindi per noi è per questo che problema sovrano e problema bancario si parlano e si autoalimentano quando ci sono le crisi. Beh, questo risvolto che ha dato adesso è abbastanza interessante, perché anche il debito italiano ce lo compriamo al nostro interno, quindi potrebbe anche essere questo, insomma, un aspetto interessante da affrontare, però dopo i suggerimenti per chi è in viaggio. Qualche sms di alcuni ascoltatori stamattina ci state scrivendo in tanti. Ferdinando da Bologna, un affezionatissimo ascoltatore: secondo me il mercato, la speculazione segnalano ed amplificano un problema, l'eccesso di debito, ma insomma ci stiamo girando intorno, ma è stato detto più volte sia negli Stati Uniti prima che ora in Europa. E poi c'è quest'altra tesi molto affascinante che la ribadisce Massimo da Rapallo, ma questa circola sul mercato da tempo, non sono tutti d'accordo, qualcuno invece la sposa completamente. Credo che si stia assistendo, dice, ad un teatrale meccanismo di svalutazione guidato dalla Merkel, che abbiamo già visto nel 92 con Amato, che svalutò salvando il nostro paese. Questa tesi appunto citava prepotentemente un paio di settimane fa, quando abbiamo visto il primo inizio di discesa dell'euro sul dollaro. Insomma, visto che parliamo di un paese che è il secondo esportatore mondiale dopo la Cina, è chiaro che ha bisogno di una valuta competitiva, cosa che non era 1,40 sul dollaro, però diciamo che è 1,32-1,33, non è che sia esattamente tanto debole sulla divisa statunitense. Giovannini, che dice? Dico che già quest'anno abbiamo visto l'1,20, 1,21, 1,22, eppure nessuno diceva nulla. Cioè, attenzione, in questo momento qualunque movimento valutario, bancario, azionario viene visto in maniera tragica, drammatica. Come dicevo all'ascoltatore precedente, si scende. Fino a dove scenderemo? Guardiamola nell'anno. Nell'anno, ok, Milano è debole, però i mercati azionari si sono comportati dignitosamente. Venivano da un 2009 eccellente, probabilmente avranno anche un 2011 buono. Lo stesso vale per l'euro. Due settimane fa era 1,41, 1,42 e si pontificava sul fatto che l'intervento della Federal avrebbe distrutto il dollaro portandolo a 1,60, a 1,80. A questo punto, ecco, due settimane dopo è la Merkel che trama per portare il dollaro che ne so, a 1,25, ma lo era sei mesi fa, sette mesi fa. Cioè, attenzione a non amplificare in maniera emotiva degli spostamenti che sono normali range in un mercato liquidissimo come quello dei cambi. Abbiamo ancora la questione bancaria da affrontare, però ci metto insieme anche la riflessione di Maria Antonietta da Napoli, che saluto rapida perché sono le 12:50:55, devo chiudere qua, stamattina ci siamo mangiati la trasmissione. Maria Antonietta, rapidissima, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. No, io volevo confermare quello che avete appena detto, riferisco quello che io avrei voluto dire, che uno, c'è la speculazione in atto da parte della Merkel proprio sulla questione euro-dollaro, perché a 1,32 non mi sembra assolutamente che la nostra moneta unica sia sotto stress. E poi che c'è anche la situazione degli stati sovrani, del debito del sovrano è praticamente la stessa che c'era qualche mese fa quando le borse volavano, cioè non è cambiata assolutamente nulla. Quindi insomma lei dice sì, volevo solo confermare e infatti quello che mi avete detto. Maria Antonietta, tra l'altro anche questa suona una riflessione interessante, perché qualcuno ha anche detto, per la verità così un po' l'avevo lanciata io come provocazione, visto che le borse stavano andando benino, avevano recuperato dopo la l'oscillazione forte subita a maggio per la crisi greca, ma non è insomma che bisognava trovare una scusa per fermare, per prendere profitto anche dal mercato azionario. Tanti temi interessanti. Franco, allora le banche italiane, che l'ascoltatore lamentava, dice, ma insomma sono nell'onda delle vendite, ma perché il nostro debito lo riusciamo ancora a vendere? Nessuna banca italiana è stata nazionalizzata, per quale motivo devono perdere così tanto accodandosi a quello che succede in Spagna alle banche irlandesi? Allora, io penso questo. Insomma, siamo stati noi in UBI Pramerica negativi da tempi non sospetti sulle banche dell'area euro. Sulle banche italiane pensiamo che la situazione della capitalizzazione delle nostre banche sia relativamente migliore di quello che c'è in generale in giro per l'area euro. Sappiamo che gli attivi delle nostre banche, pur avendo chiaramente esposizione ai mutui residenziali, sono attivi di qualità buona, decente. Non c'è stata una finanziarizzazione eccessiva del nostro sistema bancario, diciamo molto tradizionale, quindi il nostro partecipare recentemente alle tensioni delle banche dell'area euro più vulnerabili, secondo me, risiede intanto nel fatto che il contagio di cui stiamo parlando ha come canale di sviluppo sicuramente un rischio di finanziamento delle banche. Le banche per natura sono società molto indebitate, perché hanno una leva di 20-25 volte, cioè il loro patrimonio netto è molto piccolo rispetto al totale degli attivi, hanno bisogno di finanziarsi con i depositi, con le emissioni di obbligazioni. Per questo la fiducia del mercato e dei depositanti è fondamentale. In questo momento è la fiducia che sta scendendo, e quindi questo è un rischio in generale per una banca. Quello che stiamo vivendo in Irlanda è una corsa allo sportello in senso metaforico, non soltanto lo sportello retail, ma la fuga, no, dal mercato, per esempio all'ingrosso di finanziamento delle banche. Quindi questo perché noi siamo dei pigs, comunque apparteniamo a questa categoria per chi ci guarda da fuori. Il nostro stock di debito pubblico su PIL è comunque il più alto della nostra area, tra i più alti del mondo, secondo solo quello del Giappone. Certamente. Poi abbiamo delle cose buone, il nostro settore privato è molto più solido, è molto più ricco, è in grado di comprare il nostro debito pubblico, con i conti con l'estero siamo molto più solidi, siamo quasi in avanzo primario strutturale, quindi c'è una grossa differenza fra noi. Però da un lato il rischio funding e contagio c'è, dall'altro tassi di interesse così bassi, perché la performance delle banche italiane non è di oggi, è di tutto l'anno. I tassi di interesse si sono manifestati in maniera peggiore di quanto il mercato si aspettasse l'anno scorso. L'anno scorso, all'inizio dell'anno, anche di quest'anno, le attese erano per tassi che salissero, e questo per le banche italiane sarebbe stato un potentissimo catalyst di redditività, perché le nostre banche fanno moltissimi soldi sui depositi, perché non pagano quasi nulla i depositanti e il resto fanno margine. Questo non si è concretizzato, quindi lo scenario di ricavi per banche legate molto al margine di interesse, come le banche italiane, perché poco finanziarizzate e che hanno questo margine di interesse sui depositi in gran parte, è stato molto negativo il contesto operativo, e quindi la redditività è sicuramente una redditività sottotono, e che richiederà, per essere mantenuta su livelli accettabili nei prossimi anni, sicuramente delle ristrutturazioni sulla base dei costi molto importanti. Allora, un altro tema che affronteremo più avanti, io ho 20 secondi di tempo, veramente sono indecisa su cosa chiedere a Giovannini per poter lasciar concludere questa, se 30 banche. Secondi se ce la fa. Allora, in 30 secondi, continuiamo a dire che le banche devono tornare a fare le banche, quindi a essere commerciali. Quale paese ha il maggior numero di banche tendenzialmente commerciali se non l'Italia? Quindi siamo già sulla retta via. Due, una scommessa con i radioascoltatori: tra un anno ci ritroviamo qua, io sono convinto che l'anno prossimo le banche italiane performeranno, saranno tra i titoli che performeranno meglio. Marco Lombardo, teniamo questa puntata, la mettiamo in archivio, la mettiamo da parte. Mi e fra un anno, il giorno 26 novembre del 2011, ritorniamo qua con Giorgio Giovannini a sentire se questa previsione si sarà, ma anche con Emilio Franco, se si sarà rispettata. Vi ringrazio per essere stati con me, ringrazio anche Marco Lombardo, appunto, per la collaborazione in redazione, Fabio Cantadori in assistenza tecnica. Noi ci risentiamo lunedì, buon fine settimana a tutti, e vedremo, insomma, che piano irlandese verrà concretizzato nel fine settimana. A presto.